24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Mi chiedono di candidar mia figlia, ma il posto mio mi sa non se lo piglia. Anche se lei chiedessi scendo in campo, lei mi direbbe io non sono cacca. Marina, Marina, Marina, dai vieni ti prego a papà. Marina, Marina, Marina, che qua poi mi tocca scappare. Vabbè, grandissima forma, Fiorello, lo sentite, dopo la Cancellieri, ora Marina, Marina Berlusconi. Papà dai non si sbaglia, vinciamo sta battaglia e torniamo a comandare. Le 6:34 minuti, buongiorno, questo è 24 mattino. Saluto Miriam Lucchetti in redazione insieme all'alpino Peter Bescapè. E subito apriamo il nostro Parlamento, c'è un grande ritorno, lo dico subito. Un grande Nicole Minetti, no, non è Nicole Minetti. C'è a proposito di Gaglioffi, che fine ha fatto quel qua qua qua dell'osservatorio Vatte alla Pesca? E chi è il qua qua qua dell'osservatorio Vatte alla Pesca? Alberto Forchielli, buongiorno! Forchielli, ha sentito? Questo sono qua. Era un ascoltatore, presidente dell'Osservatorio Asia, a proposito di Gaglioffi, dice questo ascoltatore, che fine ha fatto il presidente dell'Osservatorio Asia? Sono qua. Qua dove? Sono a Monaco di Baviera. Ah, Monaco. Milano. A Monaco di Baviera, Monaco di Baviera. Dov'è quell'ascoltatore lì? Da dove chiama? Non lo so. Ha lasciato un messaggio in segreteria. Cosa vuol fare? Un tre round alle 6:35 del mattino? Non lo so da dove chiama. E chi? Se lo faccia dire. E poi cosa succede dopo? Ci penso io. Ma queste cose che si dicono. Prima si fanno e poi... ecco, prima si sistema tutto. Se e te poi... la dico che... allora, insieme a Forchielli voglio salutare Silvia Brasca del TG della 7. Silvia, buongiorno. Occhio che qui Alberto Forchielli oggi è subito innervosito dall'ascoltatore che gli dà del Gaglioffo. Ma perché Gaglioffo? Poi, insomma, Gaglioffo è dura, Forchielli. Di prima mattina farsi dare del Gaglioffo non è male. Che brutta mattina, ma che mi sono svegliato a fare, che tedio, buono. No. Prima mattina 6:30 sono ancora sul lavoro americano, mi devo prendere le offese subito, così che brutto modo di iniziare. E vabbè adesso rimediamo, e ce l'avevamo lì in caldo Forchielli, è scomparso 3 settimane e allora ce l'avevamo lì, appena si presenta glielo piazziamo lì, così lo mettiamo di buon umore subito. Allora, sì. Bene. Allora, il caso Cancellieri. Oh, Anna Maria Cancellieri adesso fa la voce grossa, no? Ha detto chi mi accusa di aver liberato Giulia Ligresti è bugiardo, ignorante, non capisce niente. E poi ecco questa cosa, se il paese me lo chiede, ma cosa vuol dire? Come fa a sapere il paese cosa vuole? Non lo so, deve fare un sondaggio. Silvia Brasca, secondo te, come fa a sapere se il paese vuole che rimanga oppure no? Se il paese... Nel paese saranno 3 o 4 voci che raccoglierà oggi. Ecco. È abbastanza esperta per capire l'aria che tira e secondo me non è bella. Non è bella, l'aria. No, l'aria ma non è bella da quella mattina... in cui abbiamo letto su Repubblica quella notizia. Alberto Forchielli, che dovrebbe fare il ministro Cancellieri? Beh, la voce grossa l'ha sempre avuta, perché c'ha 2 adenoidi, non so se gliele passa, ma sai, ha 2 adenoidi che sembrano 2 palle da baseball, a parte questo. Il discorso al Cancellieri va visto da un altro angolo. Io sono figlio di un funzionario statale, mio padre era uno statale, ha fatto il magistrato 20 anni, poi dopo vinse il concorso all'università e divenne professore universitario. Molto a Bologna se lo ricordo come professore universitario. Mio padre, come magistrato, stava attentissimo a chi incontrava, stava attentissimo a non farsi offrire il caffè dalla persona sbagliata. Adesso, Ligresti, non è che Ligresti sia padre Marella, capito? Non è che sia venuto fuori solo adesso. Insomma, si è sempre stato molto chiacchierato. Questo signore che viene con le sue bucate da Paternò, che in 10 anni diventa l'uomo più ricco d'Italia, capito? Faceva quasi coppia con Sindona, che venne da Patti con le sue bucate e poi diventò il finanziere più importante del mondo, capito? E questa sono 40 anni che coltivo un rapporto con questo nome chiacchierato. Io dico, nella funzione, sempre nelle funzioni di un altro rappresentante dello Stato, perché in prefettura Milano cose di questo genere. Sì. Ecco, devo dire, sicuramente c'è mancanza di stile. O non si rende conto in che mondo vive, però un altro rappresentante dello Stato deve stare attento a chi frequenta. Insomma, il paragone però è di quelli forti, no? Ligresti come Sindona, comunque cioè, ricorda... Ma non lo so, però, hai capito? Cioè, voglio dire, questo qui è da quando sono bambino io che chiacchierato. Capito? Non è che sia una roba... è pure entrato anche nel salotto buono di Mediobanca, sì, ma di voi, sì. Capito, bisogna vedere... Cioè, quindi attenzione alle frequentazioni, attenzione a bere il caffè. Sì, un altro funzionario dello Stato deve stare attento, capito? Non è che sia venuto fuori, gli ha detto i lavori, non è che sia stato un fulmine a tel sereno, capito? Sì. Questa cosa di Ligresti, perché ha avuto mille palazzinaro, sti soldi che venivano su, crescevano sugli alberi, si legavano i cani con le salsicce, sì, non è una roba. Cos'è questa? Si legavano i cani con le salsicce, non l'ho capito. Ah sì, bene, il periodo di d'oro, Ligresti è stato l'uomo più ricco d'Italia, capito? Però, insomma, sti soldi, sti palazzi, queste concessioni, non è una roba che gli ha detto i lavori, non si ponessero dei problemi. Insomma, non si può scendere dal pero, ecco, diciamo così. Dire, un alto funzionario dello Stato sta molto attento a chi frequenta, sta molto attento alla propria condotta, non si mette in condizione di farsi telefonare e dire, cara cocchia, voglio dire, è un altro modo di concepire il servizio dello Stato. Ma è chiaro. Rispetto alle generazioni precedenti. Però, insomma, su questa amicizia, Silvia Brasca si parla molto, e poi non lo so, insomma, ognuno sceglie gli amici che vuole. Sta di fatto che la questione è meramente politica, è diventata molto politica. Addirittura pare, secondo qualche giornale, che Letta si è infastidito dal tono duro usato da Anna Maria Cancellieri, che proprio adesso passa al contrattacco, no? Il Fatto Quotidiano titola adesso vuole pure gli applausi, adesso non lo so. Comunque tu dici, pensi che finirà male per lei politicamente, in realtà? Ma dovrebbe, secondo me dovrebbe, nel senso che Forchelli chiacchierato no, è una persona già passata in giudicato, lui è il fratello di cui Antonino, di cui Anna Maria Cancellieri dice di essere stata ancor più amica. Beh, mica sono condannati, ci sarà un processo, no? Antonino Ligresti alla camera iperbarica del Galeazzi e Salvatore Mani Pulite, richieste del 92. Ah vabbè, ma insomma, vicende del passato, però dici non sono... Non è da vedere se sono vicende del passato, ecco, però io penso che Anna Maria Cancellieri abbia il suo problema, che è stata lei la prima telefonata, quella che fece dal tavolo del Ministero, in cui disse quelle tre parole: non è giusto, ed è il problema è quello lì, al di là delle cioè l'arresto, giudicò l'arresto, sì, non giusto, però vabbè, insomma, telefonando dal tavolo del Ministero, tu la signora Cancellieri, se voleva chiamare l'amica compagna di Ligresti, chiamava da casa, non dal tavolo del Ministero. Io sono molto rigida, sono una persona rigida. Vabbè, ma quando ha alzato il telefono mica ha detto sono qui dall'ufficio del Ministero, cioè da quel punto di vista. Ma in qualsiasi altro paese non saremmo qua ancora a parlare. Appunto, è interessante. Nei paesi normali, per esempio, chiuse 2 giorni dopo. Vediamo, non so, Forchelli che vive tra Stati Uniti, Germania, Italia e Cina. Diciamo, in questi paesi, a parte l'Italia, insomma, come gestirebbero questa vicenda? No. Allora, prima di tutto Ligresti non sarebbe andata avanti tanto. Secondo, probabilmente... una persona in certe posizioni con certe amicizie sarebbe stata vista con un attimo, ossia in America hanno lasciato a casa dei ministri perché non pagavano i contributi alle badanti, capito, 40 anni prima, per cui ci sarebbe stato uno screening, è un'amicizia pericolosa. Per cui in Cina no, vabbè, in Cina no, è tutto pericoloso. In Cina in che senso? Però... No, in Cina la facevano fuori, cosa vuol dire? No, in Cina? No, no, beh, i rapporti sono quelli in Cina, sì, basta non uscire dalla buona creanza e ci sono rapporti molto incestuosi tra affari e politica. Come le dico, nel caso degli Stati Uniti e della Germania non credo che avrebbe avuto un grande futuro al servizio dello Stato, un grande futuro politico con certe frequentazioni, secondo me. Ah, ecco appunto, cioè basta... Questo, secondo me, perché fanno degli screening e viene fuori, insomma, una frequentazione unusual. Capito? Non da etichetta, capito? Non da etichetta, dopo, non da etichetta, poi dopo che quello lì manda a casa la IDE perché mi ha fatto gioire per 2000 euro di ICI e quell'altra sia lì a fare il braccio di ferro non so con chi, però, capito? No, ma è chiaro, io ieri... telefonata. Ieri ce l'avevo in TV la IDEM, ci ho parlato e diceva, insomma, io sono stata cacciata, sì, per 1000 euro di fatto. Ma Letta come la gestirà questa cosa, secondo lei? Letta come la vede? Letta sente un po' gli umori, se fosse per Letta la vorrebbe già fuori dai coglioni, cioè, sono cose che disturbano uno come Letta, capito? Queste cose qui... Sono robe che soffre, gli strappi, testa da vecchio democristiano, gli strappi, se fosse per Letta la vorrebbe già fuori in punta di piedi, ecco. Beh, insomma, dai coglioni in punta di piedi sono due cose un po' diverse. Insomma. Prima dice la vorrebbe già fuori dai coglioni, poi però in punta di piedi. 24 mattino. Se c'è un incremento di mancanza di certezza della cena per gli onesti, è perché si sconta la mancanza di certezza della pena per i disonesti. 16 anni fa un pentito confessa lo schifo della terra dei fuochi, ma ti risulta che hanno allontanato la popolazione, che hanno fatto delle bonifiche. Hanno solo secretato l'interrogazione. Ma allora chi è più delinquente, colpevole? Il boss schiavone o questo cesso di Stato italiano in cui stiamo? Una cosa è telefonare per una persona inventando, millantando parentele che non esistono. Una cosa, se è vero come dice la cancelliera, che l'ha fatto per altre 100 persone, è telefonare per chiunque sia male o chiunque le venga segnalato. Ma avete detto alla gente che cosa ha combinato Di Cresti alla Fondaria SAI? È uno schifo, questi hanno rubato alla grande, ai piccoli azionisti e adesso fanno una sceneggiata che stanno lì a non mangiare, che soffro di anoressia. Vergogna, vergognatevi! È successa la stessa cosa a Berlusconi, è stato impiccato quest'uomo. Le discriminazioni ci sono. Perché la Rudy era una mignotta, allora viene fatto un trattamento. Questa che invece è la Ligresti, c'ha i soldi, viene fatto un altro trattamento. In galera si sta male, il disagio è senza fine. Mangi poco e dormi male, stretti come le galline. Ma se scegli il numero giusto, hai risolto la questione e te puoi levare il gran gusto, desorti dalla prigione. È il nostro stornellator cortese Silvia Brasca, è tornato a colpire, hai sentito il paragone con Ruby, che ne pensi? Insomma si dibatte qui a dire no. Ma... sono storie mie o sono storie diverse, ecco, non, sì certo, questo non senza le dubbio metto volentieri, non le metto volentieri insieme e ha ragione, c'è comunque il vizio del telefono, c'è quel vizio del telefono tutto italiano che... Dal vizio più che del telefono tutto italiano, dice conosco l'amico dell'amico, conosco quello bravo, quello giusto, conosco quello che mi dà una mano. E così. Forchielli è come il caso Ruby, Forchielli? No, per carità. Beh, No, beh, il caso Ruby si era esposto lui, poi aveva cercato di coprire, insomma... Diverso. Ma sotto certi aspetti, cioè, voglio dire, è il solito Bungasconi che esce dai limiti, capito? Ossia, di per sé la telefonata, quella della Ruby, è stata senz'altro molto meno protocollare, capito? Perché la Cancellieri, questi qui li conosce da 40 anni, come fa a sottrarsi al telefono, capito? Poi il telefono controllato era quell'altro, capito? Cioè, di per sé, come, il problema è che, come dicevo prima, cioè, se vuoi arrivare a certi livelli, in un paese normale stai lontano da certi ambienti. Eh sì, è chiaro. E lei si è messa in condizione di potersi, di farsi chiamare, ha detto delle parole anche di circostanza, poi fanno delle parole, ma non sta tanto in questo quanto, ma com'è possibile che siano arrivati al punto da poterla mettere in questa sì, situazione, capito? Forchielli, però io non ho mai chiaro, io le volevo chiedere questa cosa riguardo ai conti, perché sono 3 settimane che non ci siamo sentiti, la legge di stabilità va avanti, eccetera. Oggi si torna a parlare di tassa sulle rendite, si torna a parlare di condono fiscale, si torna a parlare di questo, si litiga con l'Istat, Saccomanni litiga con l'Istat. Qual è la situazione conti in queste 3 settimane? Andiamo meglio, andiamo peggio? Ma sì, ma stanno, i conti sono quelli, capito? Ossia, non stanno lì a cercare di spostare 2 miliardi da una parte, 2 miliardi da quell'altra, a fare dei, cioè non c'è spazio, e cercano quasi di raggiungere il consenso con 4 spiccioli, mentre invece non si doveva abolire l'IMU. I conti sono sempre corti, siamo sempre al limite di passare oltre. Voglio dire, è una situazione un po' da poveretti, capito? È una situazione, ovviamente non è una finanziaria coraggiosa, non è una legge di stabilità coraggiosa, e questo governo non potrebbe averla. C'è questo compromesso, questo piccolo trafficare all'italiana, dove sì, la gente cerca di mettere i soldi su 4 lire, così un po' la vedo. Sì, insomma, abbiamo 4 lire, dobbiamo fare questo piccolo cabotaggio, capito? Sembra il tesoretto, il famoso tesoretto su cui tutti cercano di mettere le mani, un po' a me, un po' a te, quando tutti sappiamo che a nulla serve tutto ciò. Sì. Magari quello che ti danno tra 3 mesi lo cancellano, capito? Insomma. E poi dietro tutte queste tasi, tarsi e compagnia si nasconde il fatto che ma forse neanche l'IMU sarebbe bastata. Questa è, insomma, la verità. Ci arrabattiamo. Quando l'economia non cresce. Ci arrabattiamo. Sì, è un piccolo cabotaggio per un paese che invece sta andando rapidamente a picco. A picco, ah, ecco, bene. Sempre una punta di ottimismo. No, io vi devo salutare, ma Forchielli non sei offeso per il Gaglioffo? Chiamiamo un po' quell'ascoltatore lì, vogliamo capire. Ma no, ma me ne dico di tutti i colori. Ah, beh, c'è anche di peggio. Sì, no? adesso devo tornare a casa, mi daranno un viadotto quando torno a casa, quel che ho detto oggi. Chissà se arriva a casa. No, troverò un blocco al Brennero, No, ma perché? Chi la deve far saltare in aria? No, nomi pericolosi, no, non diciamo così, assolutamente. Buon viaggio, tornerà a casa tranquillamente. Grazie ad Alberto Forchielli, grazie a Silvia Brasca, il TG della 7. Ci sentiamo presto, è tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:20, siamo freschi come delle rose. dopo tre... Quante ore mettiamo insieme di sonno? Io, Miriam Lucchetti e Peter Bescapè, una decina, insomma. Io sono a 3,5 anche Peter, e quindi 3,5 più 3,5 fa 7, e 5 Miriam, l'unica debosciata qua che si è permessa 5 ore. Siamo a 12 ore di sonno in 3, viva! Allora, oggi parleremo del caso Cancellieri. Oggi parlerà alla Camera e al Senato la ministra della Giustizia, cercherà di riferire sulla vicenda delle sue telefonate nel caso Giulia Ligresti. Se la caverà politicamente parlando? Beh, ieri era una ministra molto aggressiva a Strasburgo, tra poco lo vedremo anche in rassegna stampa, una ministra che ha detto basta queste menzogne nei miei confronti. È il tema su cui aprono alcuni giornali che andiamo a sfogliare. In questo martedì 5 novembre, i titoli intanto: Il Sole 24 Ore, banche, più credito per le piccole e medie imprese, questo è il titolo di prima pagina, e si concentra sulla situazione economica anche il Corriere della Sera con il titolo: più sgravi ai redditi bassi e l'analisi della legge di stabilità, e anche il Messaggero: più tasse sui guadagni di borsa, dunque le tasse sulle rendite finanziarie. Poi la vicenda Cancellieri, sulla quale aprono diversi quotidiani: La Repubblica, Cancellieri, se serve me ne vado. La Stampa, Cancellieri, pronta a lasciare. Libero, cancellabile, gioca con il cognome Cancellieri. Il Fatto Quotidiano, adesso la Cancellieri vuole pure l'applauso. Il Secolo XIX, Cancellieri, ultimatum al PD, questo è il titolo di prima pagina. E poi l'Unità invece si concentra sulla guerra all'interno del Partito Democratico. Renzi, Cuperlo, guerra dei voti, uso questo termine guerra perché è nel titolo di prima pagina dell'Unità. Il Giornale invece: sinistra salva ladroni, il PD ci prova, una legge per sanare gli scandali dei rimborsi. Questi alcuni dei titoli che trovate sui giornali, mentre Avvenire apre: cercasi vera stabilità. Ma tra poco Avvenire lo vedremo proprio in apertura di rassegna, perché sì, continua la saga della questione dei costi della politica, in particolare con sguardo sulla regione Emilia-Romagna, dove oggi torna Repubblica. Emilia-Romagna, le cene d'oro dei consiglieri. Cari ascoltatori, tenete strette le mani sul volante se state guidando, o mani sul manubrio se siete in bicicletta, e come dico io anche tazzine del caffè bollenti da appoggiare, perché ci sono le cifre parlano di circa 500.000 euro di spese in cene da parte di tutti i consiglieri finiti sotto indagine della procura nell'Emilia Romagna. 500.000 euro in 19 mesi. Il PDL, fa sapere Repubblica, pagina 9, ha speso 220.000 euro, il PD arriva secondo con 145.000 euro, ma anche il Movimento 5 Stelle si difende, spesa pro capite dei due consiglieri grillini che supera quella dei democratici. Tutti o quasi amano la buona cucina. I consiglieri dei 9 gruppi politici della regione Emilia-Romagna alla fine hanno speso 500.000 in 19 mesi in cene e pranzi. 500.000 nel budget gastronomico impiegato dai 24 democratici, un buon quinto, e dunque 30.000 euro attribuito al capogruppo Marco Monari, che la domenica si è dimesso, ma sono dimissioni un po' così, a metà, si è dimesso da capogruppo, rimane comunque consigliere regionale. E Monari e l'ex segretario regionale dei DS Roberto Montanari hanno soggiornato ad Amalfi per 2 notti al costo di 200 euro a notte, però la giustificazione è la partecipazione a un evento politico. Ma insomma, anche sul Fatto Quotidiano: in regione Emilia la politica mangia bene, soldi pubblici per cene e pranzi, 220.000 euro in 19 mesi del PDL, 145 dal PD, 53.000 euro dalla Lega, 18.000 euro dai 5 Stelle. Queste le spese, ovviamente c'è chi ha più consiglieri, c'è chi ne ha meno. E che dire, insomma, è sempre questa cosa delle cene, le cene. Tra l'altro Avvenire dedica pagina 3 proprio ai costi della politica. Il titolo è un focus sul Molise. Costi della politica, il Molise dribbla i tagli, pagina 3 di Avvenire, è tutta un'applicazione della legge Monti, un recepimento della legge del governo che in Molise, nonostante quello che dice il governatore Paolo Di Laura Frattura, che viene anche intervistato da Avvenire e che dice abbiamo ridotto i costi, in realtà Avvenire fa tutti dei calcoli e per scoprire che in regione le indennità e i fondi dei gruppi consigliari sono stati portati al massimo, in più c'è una contabilità parallela per gli stipendi dei collaboratori o i cosiddetti portaborse. Sono 319.000 gli abitanti del Molise, 3,8 milioni di euro per questa regione sono i costi della politica regionale, il 65% delle persone in Molise sono occupati nel settore pubblico. Questa è l'inchiesta di Avvenire che si concentra sul Molise e sui costi della politica. E il dato di fatto è sempre questo, soprattutto le cene. Oh, le cene non se ne fanno mancare manco mezza. Invece c'è un sindaco, non so se l'avete visto, io ho pubblicato la foto sul mio profilo Twitter, Alino Milan, potete andare a vederla lì, ma trovate la foto anche online. Ed è il sindaco di Messina. Che ti ha combinato ieri il sindaco di Messina, 4 novembre, festa delle forze armate? Il sindaco di Messina è un sindaco sui generis, molto particolare. Pensate che anche la televisione tedesca è venuta a fare un servizio, è uno che va in giro con i sandali, è un insegnante di ginnastica, uno che quando deve fare la sua ora di yoga, cascasse il mondo, interrompe qualsiasi cosa. E ieri è anche un pacifista. E c'è questa foto che viene messa in prima pagina dal Manifesto, dal titolo Il nostro ragazzo. Ci sono due militari, due carabinieri impettiti sull'attenti alla festa delle forze armate, e lui è arrivato con una bandiera arcobaleno, quella della pace, vestito così con una maglietta trovata così all'improvviso, fascia tricolore e la bandiera pace, l'Italia ripudia la guerra. Cioè un sindaco che scrive il manifesto ha poi detto trasformiamo gli arsenali in granai, il sindaco di Messina sventola l'arcobaleno con la scritta dell'articolo 11 della Costituzione alla festa delle forze armate, fa scappare due generali con il ministro D'Aglia che si offende, dice sono stati offesi i militari morti per la pace. Ma il manifesto fa tre pagine dedicate a questo sindaco, Angelo Mastandrea, inviato a Messina. Si presenta con la t-shirt rossa con la scritta Free Tibet, jeans, scarpe da ginnastica, il sindaco più eterodosso d'Italia, sbuca sul rettilineo che porta al municipio di Messina. Me lo avevano preannunciato i suoi fedelissimi, racconta il manifesto, e così è stato. Renato a Corinti è un anarchico prima di tutto nello stile di vita, pertanto è inutile inseguirlo, tentare di fissare un appuntamento con lui. T-shirt rossa, si è presentato e una volta sbucato si ferma prima di affrontare l'ultimo tornante verso il municipio, lo ferma un gruppo di adolescenti che lo attorna, uno di questi indossa un cappellino da rapper, vogliono scattare una foto ricordo con lui e lui dice se volete vengo a incontrarvi a scuola, dobbiamo rivoltare la città come un calzino. Racconta il manifesto sotto il servizio di due pagine all'interno dal titolo Un sindaco fuori dal comune. Racconta che anche la TV tedesca ARD è venuta fin qui per raccontare questo personaggio a Corinti, che da quando è stato eletto sindaco ha fatto scalpore, no? Conosciuto come il sindaco scalzo, il pacifista che nel 79 occupò il checkpoint Charlie a Berlino per protestare contro il muro, che ieri ha srotolato la bandiera arcobaleno davanti all'esercito schierato per la giornata delle forze armate chiedendo la conversione degli arsenali in granai. E questo insegnante di educazione fisica che appunto racconta il manifesto rifiuta l'indennità e non esita a sospendere le sue attività per un'ora di yoga, un rito che ripete da 40 anni. Ma non so, può suscitare simpatia, può suscitare sicuramente, ieri ha suscitato imbarazzo, il ministro D'Aglia appunto ha detto ha offeso così i militari morti per la pace. Sta di fatto che tutte le foto le trovate sia sul manifesto sia in rete di questo sindaco che ha srotolato la bandiera per la pace, la bandiera della pace, di fronte ai militari un po' sbigottiti. 24 mattino. Eccoci qui alle 7:33 minuti. Allora, il caso certamente del giorno, il caso politico è il caso Anna Maria Cancellieri, di cui parleremo anche alle 8.15 con ospite. Avremo ospite l'ex ministro alla giustizia Nitto Palma, avremo ospite il senatore Alberto Airola del Movimento 5 Stelle, ci sarà con noi anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, morto dopo l'arresto in carcere, che due giorni fa ha detto, difendendo il ministro Cancellieri, ci fosse stata lei, mio fratello sarebbe vivo. Ora, il punto è politico. Ieri Anna Maria Cancellieri era a Strasburgo per parlare proprio del tema carceri, come affrontare un'emergenza che c'è, ora è stata sopravanzata da queste polemiche politiche, e racconta Donatella Stasio, è un'Anna Maria Cancellieri totalmente combattiva, pronta a rispondere punto su punto. Pagina 11 del Sole, il titolo è "Non cedo davanti alle menzogne". È un colloquio del Sole 24 Ore con Anna Maria Cancellieri che esordisce così: "Non sono disposta a fare l'anatra zoppa. O si chiarisce che ho piena dignità di fare il ministro della giustizia oppure se ne trovano un altro". Ecco qui il punto molto duro, si scordino, io non sarò mai un ministro dimezzato, non si scompone, insomma, qui devo convincere a Strasburgo quel che abbiamo fatto in sei mesi, che è una rivoluzione copernicana, ma poi parla del caso italiano e il caso che la coinvolge. La parola menzogna torna spesso, continuare a dire che avrei tentato di far scarcerare Giulia Ligresti è una menzogna. Il dipartimento penitenziario non può far scarcerare nessuno, la scarcerazione la decide il giudice e io non ho parlato con nessun giudice. Il procuratore di Torino Caselli lo ha detto chiaramente, è una menzogna, una menzogna, una menzogna. Tuona, scrive così il Sole 24 Ore, e chi lo dice è falso, bugiardo, ignorante, con tanto di punti esclamativi. Ma insomma, vedete, il tono è perentorio. Anna Maria Cancellieri, pronta a difendersi con le unghie, aggiunge quindi: se la mia presenza è utile al governo, resto. Se è un peso, con lo stesso orgoglio faccio un passo indietro, perché ho a cuore l'interesse del paese e il governo deve andare avanti. Ma Letta mi ha detto: stai tranquilla, chiarisci appena possibile in Parlamento ed è quello che farò. E poi mercoledì devo entrare in ospedale per operarmi alla spalla. Insomma, è un'Anna Maria Cancellieri, avete sentito anche dai toni, molto molto dura. I titoli sono questi: Cancellieri tra rabbia e orgoglio, lascio se il paese me lo chiede, questo è il titolo del quotidiano nazionale. Ecco, però c'è per la ennesima volta questa apertura a dire se il paese lo vuole lascio. Non si capisce bene cosa poi voglia dire se il paese lo chiede. Non so, non avrà fatto certamente un sondaggio lampo tra 60 milioni e rotti di italiani, quindi non si capisce dove potrà cogliere il polso di ciò che vuole il paese. Cancellieri pronta a lasciare, non mi faccio dimezzare, così il titolo di pagina 6 del Messaggero, mentre Libero attacca duramente un ministro cancellabile. Tra l'altro Libero risponde pubblicando alcuni dati del catasto, perché ieri il ministro Cancellieri aveva detto: sono pronta anche a querelare un giornale che ha usato il metodo boffo contro di me, attribuendomi delle proprietà che non ho, tra cui una a Genzano. E Libero risponde a pagina 2: il metodo boffo? No, usiamo il metodo catasto. È vero che Cancellieri non ci ha citata, ma chiaramente si riferisce a noi. Ed ecco allora che Libero pubblica a pagina 2 il report di un'indagine catastale. Ci sono gli immobili, si corregge parzialmente Libero, cioè dicendo: è vero, la villa non è a Genzano, è a Roma, ma a Genzano è stato firmato il rogito, da qui è nato il piccolo qui pro quo topografico, ma la villa è una villa a Roma e la villa in questione esiste e come. E Libero pubblica a pagina 2 appunto una fotocopia del rogito. Tra l'altro Libero fa anche un viaggio in carcere con Giacomo Amadore al carcere di Vercelli, dove Giulia Ligresti è stata detenuta, racconta Giacomo Amadore. L'agente della polizia parla, ma solo a patto che non dica il mio nome. Parla della detenzione di Giulia Ligresti: con noi si apriva, piangeva, si sfogava, ci chiedeva di non chiudere la porta della cella, l'unica cosa che non riusciva proprio a sopportare era questa, soffriva di crisi d'ansia, voleva visitare i parenti e avere i colloqui con i parenti in una saletta separata, ma questo non era possibile. Ma poi questa agente di polizia penitenziaria Vercelli dice: qua abbiamo altri casi come quella di una dominicana autolesionista con forti disturbi alimentari, è arrivata a pesare 42 kg, sviene. Ogni tanto la porta in ospedale, ma per lei c'è la sorveglianza a vista. Tanto che Libero titola così: non tutte le anoressiche sono uguali. Come dire, come a sottolineare chi, come Giulia Ligresti, aveva un aggancio importante, ce l'ha fatta. Giulia Ligresti, che tra l'altro oggi viene pubblicata, fotografata dal settimanale Oggi, ma le foto le trovate anche sui giornali, le trovate qua e là, anche di recente, reduce da una visita a un 5 stelle sul Lago Maggiore. Insomma, la difesa della Cancellieri: falso, ignorante, chi mi accusa? E questo è anche il titolo del Secolo XIX a pagina 7. Il Corriere della Sera invece, con Alessandro Trocino, ricorda a pagina 8 che oggi in realtà non è previsto un voto. Cancellieri, il PD prudente, oggi chiarimento in aula, ma non è previsto un voto. Rimane l'amaro in bocca per il sospetto che nel nostro paese le garanzie non siano uguali per tutti. Così Gianni Cuperlo parla di amaro in bocca per l'intervento di Anna Maria Cancellieri, ma fa sapere il Corriere della Sera che non è previsto nessun voto oggi, né al Senato né alla Camera. Il ministro chiarirà la sua posizione, seguiranno gli interventi dei gruppi, ma oltre a una generica stigmatizzazione non ci dovrebbe essere altro, anche perché il presidente del Consiglio Letta non ha mai lasciato solo la Cancellieri e dopo la nota, oggi o domani, potrebbe intervenire anche lui pubblicamente. Certo, l'eventuale defezione di Anna Maria Cancellieri viene definita da tutti i giornali come un qualcosa che potrebbe davvero far cadere il governo. Pensate che il retroscena di Fabio Martini a pagina 3 della Stampa è proprio questo: dietro la sfiducia individuale, l'incidente che può aprire la crisi, cioè il timore è che stia serpeggiando una sorta di novità poco promettente per il governo, cioè sta prendendo corpo un luogo politico e mentale che non c'era nelle settimane precedenti, cioè l'idea che da un incidente casuale possa franare tutto. E quindi ecco perché puntellare anche la posizione di Anna Maria Cancellieri, secondo questo retroscena della Stampa pagina 3, è un modo per puntellare fortemente il governo. A proposito di Anna Maria Cancellieri e della storia della sua famiglia, in questo caso in particolare della storia di suo marito, oggi il Fatto Quotidiano con Marco Lillo ricorda a pagina 3 che capitò anche al marito di Anna Maria Cancellieri, Sebastiano Peluso, anni fa, di finire in carcere. Una retata del 1983, Sebastiano Peluso era un farmacista, e per la verità era il 1981, ci fu la vicenda delle cosiddette fustelle false, vale a dire persone e i farmacisti che facevano rimborsare dopo fustelle false dei rimborsi ai quali non avevano diritto, e in questa retata in cui furono arrestate 23 persone finì anche in carcere, per la verità per pochi giorni, e poi il Fatto ricorda ci fu in Cassazione una condanna per un reato ridicolo, mi pare fosse l'incauto acquisto, ricorda ora un farmacista coimputato per il marito di Anna Maria Cancellieri, Sebastiano Peluso. Vabbè, insomma, qui si affonda un po' anche nella storia. Vabbè, la politica è anche altro, certamente la legge di stabilità è in primo piano ancora. Io voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Allora, buongiorno. Intanto, chi ha ragione, Saccomanni o l'Istat? Si litiga tra Saccomanni o l'Istat sui dati per la crescita. Ah no, questo qui è troppo difficile come indovinare il risultato della partita di stasera. Che rischiano di aver ragione tutti e due, solo che guardano con prospettive diverse. No? Gli uni dicono: per quello che abbiamo visto fin qua l'Istat, e l'altro dice: no, però possiamo migliorare con la legge di stabilità. Poi sai, oggi in realtà, come spiega molto bene Mobili sul Sole, il nodo vero prima della legge di stabilità è trovare i soldi per la seconda rata IMU, caro Alessandro. Sì. Qua ci tocca tornare alla cassa per la casa, scusa il gioco di parole, a questo della mattina, ma purtroppo. E bisogna fare in fretta perché è un mese, no? Manca un mese e non si sono ancora trovate le risorse. Esatto, manca un mese, e a parte che questo mese, il mese di novembre, si potrebbe dire il mese più crudele, come diceva il poeta, lui lo diceva di aprile, ma noi lo diciamo di novembre perché si pagano le imposte. Tanto che domani daremo anche una guida per gli acconti di imposta, ma vedi che adesso si ragiona su aumenti dell'imposta per quanto riguarda le banche, torna in ballo anche un aumento dell'acconto di imposta per le imprese, insomma è tutto molto fluido, come si diceva una volta con termine elegante. Hai visto l'intervista con la Nino? Assolutamente sì, si parla di Alitalia. In questa intervista con la Nino riconosce anche degli errori, soprattutto dice: il mio più grande errore è forse avere sopravvalutato quello che era le potenzialità di Alitalia nel 2008. Però dice, e perché te lo chiedo Mauro, che Alitalia è appetibile, sembrerebbe proprio di no, così a una lettura molto disattenta della situazione. Perché Colaninno dice che è appetibile all'Italia? Perché secondo lui ci sono tutte le prospettive, nonostante appunto lo stato dei conti non sia dei migliori, per un ritorno di competitività di Alitalia, lui dice per il 2016 a un certo punto. Cioè, dice, in fondo noi abbiamo gestito una situazione, venivamo da troppi costi, abbiamo messo sotto controllo i costi, adesso abbiamo un problema di mancati ricavi. Dopodiché devo dire, Tartierotti lo incalza abbastanza dicendo, beh insomma non è che però se siamo qui ad aspettare quello che faranno i francesi la situazione sia così rosea, ma devo dire che Colaninno si mostra abbastanza fiducioso e determinato, pur essendo poi, lo sappiamo, presidente uscente, no, di una compagnia che vedremo quale futuro andrà a delineare. E se avrà anche un piano industriale. Dice anche non solo Air France è nel nostro futuro. Non si sbilancia, sì. Però parla di Etihad, parla di Aeroflot, insomma. Certo che tutti guardano a questa azienda con occhio un po' scettico in questo momento. No, diciamo che il loro recente passato, ma anche meno recente, non depone a favore delle dichiarazioni di Colaninno, però merita la considerazione stamattina, merita qualche riflessione appunto. Questo certamente. E tra l'altro, scusami, a proposito, mi viene in mente Trasporti con Trasporti, il 7 parte lei, come la mostra delle moto, lo racconta Sarcina, ma te lo dico perché parte nella zona della Fiera Ro e raccontiamo come appunto stiano facendo una short list dei collegamenti per l'Expo, che proprio sulla quella stessa area della Fiera andrà a insistere. E praticamente, che ti devo dire Alessandro, tagliamo un po' le pretese, ecco, ci riduciamo alle opere essenziali, per dire così, come direbbe Mengoni, l'essenziale. Certo. Allora Mauro, io intanto ti ringrazio, ci sentiamo domani e dopo le informazioni sul traffico ripartiamo, al di là della disfida tra Istat e Saccobanni sui conti e sulla crescita potenziale per l'Italia, nella quale non ci vogliamo addentrare. Sulla questione della legge di stabilità invece ci sono alcune delle novità, almeno a raccontare da quello che dicono i giornali, in arrivo tra poco. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, la legge di stabilità, come detto, alcune novità sono annunciate dal Corriere della Sera, che prova a riassumerle con Roberto Bagnoli a pagina 3. Detrazioni sulla casa e cuneo fiscale, bonus di 200 euro fino a 30.000 euro di reddito. Questa è la novità su cuneo, casa e sul tema crescita questi tre concetti, e la legge di stabilità si vuole cambiarla per cercare di dare più soldi e più sviluppo all'Italia. Per il cuneo, fa sapere il Corriere, si sta andando verso un abbassamento della platea sotto i 30.000 euro lordi di reddito, in soldoni significherebbe 200 euro netti all'anno in più in busta paga da erogare probabilmente in un'unica rata, mentre per il nuovo regime fiscale per la casa si profilano detrazioni obbligatorie sulla TASI per le famiglie in base al reddito e al numero dei componenti, una modifica annunciata ieri da Maurizio Lupi, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta. E poi la crescita, invece, vabbè, sulla crescita ci sono le stime dopo la lite tra l'Istat e Saccomanni. L'Istat ha rivisto al ribasso dall'1,1 allo 0,7% l'aumento del PIL nel 2014. Saccomanni dice: non siamo d'accordo, divergenze con l'Istat, questo chi vivrà vedrà. Sta di fatto che torna la tassa sulle rendite, invece scrive il Messaggero a pagina 3, tra l'altro racconta anche il Messaggero che spunta l'idea di un condono fiscale. No, vi prego, basta l'Italia dei condoni, voglio sperare che non sia così, ma in realtà spunta l'ipotesi condono fiscale, così titola il Messaggero a pagina 3. Vabbè, la politica si interroga anche, centrodestra e centrosinistra, su che cosa? Beh, il centrodestra sulle primarie. che poi si interroga, cioè sono così le anticipazioni del libro di Bruno Vespa che vengono distillate come gocce di prezioso spirito che quotidianamente, quella di ieri anticipata è Alfano che nel libro di Bruno Vespa ha detto vuole le primarie, vuole le primarie del centrodestra, dobbiamo scegliere con le primarie e via lì, alle. Si apre il dibattito, lealisti, governisti, no, lealisti, scissionisti, come dobbiamo definire, non lo so. Mentre nel PD si litiga per la questione delle tessere farlocche o no. Ora c'è la guerra dei congressi, come scrive Repubblica, dei congressi provinciali. Cuperlo dice: ho vinto 49 a 35 dei segretari già eletti. I renziani dicono sono dati falsi, la partita è ancora aperta, c'è lo scontro sul tesseramento. E vabbè, queste vicende qui della politica. Vabbè, di cosa mancava in Italia per animare il dibattito? Una bella guerra del pomodoro. Oh, la guerra dei pomodori. Dopo che l'azienda Pomi ha fatto una pubblicità nella quale, come dire, in nome del pomodoro a chilometro zero ha fatto sapere: noi facciamo solo la passata coi pomodori padani della pianura padana. Eccolo qui, apriti cielo, lo scontro, guerra tra nord e sud, perché la Pomi fa infuriare la Campania. Come dire, dalla Campania hanno detto: beh, certo, hanno voluto fare questa pubblicità nel sottolineare che fanno i pomodori solo al nord perché vogliono mandare un messaggio che i pomodori della Campania non sono sicuri, sapete la polemica, la terra dei fuochi, i pomodori coltivati in regioni dove si sarebbe sversato del materiale rischioso nel terreno. E allora il pomodoro a rischio arachiri, pagina 45 del Sole 24 Ore, in Campania la disfida, che però ormai su tutti i giornali, addirittura Il Giorno titola in apertura in prima pagina su questo, la guerra dei pomodori. C'è anche un'intervista al responsabile dell'azienda Pomi che dice: al nord piante sicure e la Campania si indigna. Eccola qui, la disfida del pomodoro. Dite la verità, ci mancava questa, e io sono sicuro che nei bar o nelle vostre colazioni luculliane starete parlando della guerra dei pomodori tra nord e sud. In realtà il tema di come vengono coltivati i nostri prodotti è un tema molto sensibile e molto importante. Va bene, siamo al momento conclusivo e siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali, a mio insindacabile giudizio. A me dispiace, io non ho nulla contro Vittorio Sabadin della Stampa, ma oggi ancora lui deve andare il premio, credo sia la seconda volta in questa settimana. Perché? Perché la Stampa ci racconta, pagina 17, devo dire che io ero rapito dalla lettura di questo articolo. Io non lo so perché in redazione ieri abbiano deciso di fare un articolo sul principe Carlo. Principe Carlo che compie 65 anni, manco un'età che uno dice 70, 60, 80, no, 65, ma già chi se ne frega. Il principe Carlo, l'eterno erede al trono, invecchia aspettando. Tre quarti di pagina. Voi sapete che il principe Carlo non possiede un telefonino? E che nessuno può chiamarlo direttamente? Che in privato guida da 44 anni un Aston Martin? Che non mangia mai a pranzo, né in casa né fuori? Che mangia al massimo un sandwich o spremuta d'arancio? Che non mangia mai nei suoi lunghi viaggi in aereo? Che ama tutti gli animali, meno i gatti? E soprattutto che beve martini cocktail, ma quando è in compagnia della regina, beve ciò che beve la regina. Ma chi se ne frega di tutte queste cose? Ma dico, ma scriverci mezza pagina sulla Stampa? Io dico, non l'avete capito. La carta costa e andiamo avanti così. Giornale Radio. Mattino. Eccoci qua alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, la domanda che vi poniamo oggi è molto semplice e vi do il numero per intervenire: 800 24 00 24. Secondo voi il ministro alla giustizia Anna Maria Cancellieri dovrebbe dimettersi? Beh, i fatti sono noti, o se no ve li riepilogo. Qualche mese fa viene arrestata parte della famiglia Ligresti. E Anna Maria Cancellieri, che è ministra della giustizia, prima telefona alla compagna di Salvatore Ligresti e ne manifesta solidarietà umana, sono amici da decenni, e poi successivamente, allertata da un membro della famiglia Ligresti, si attiva, segnala le condizioni precarie, molto precarie, di salute di Giulia Ligresti, incompatibili con il carcere. Poi cosa succede? Che Giulia Ligresti successivamente viene scarcerata, ma ieri ancora il ministro ha parlato di menzogna, di bugiardi, di falsi, di ignoranti coloro che insinuerebbero che l'intervento di Anna Maria Cancellieri sia stato un intervento a favore della scarcerazione di Giulia Ligresti. Insomma, il tema politico c'è. Sentite ieri Anna Maria Cancellieri. Se il mio paese me lo chiedesse, farei un passo indietro, perché a me interessa che il governo Letta vada avanti e che continui, perché sono convinta che l'unica, la giusta risposta in questo momento è il bisogno del paese. Allora, se me lo chiede il paese, faccio un passo indietro. Non si capisce bene, questo è il mio modo di vedere, che cosa vuol dire se me lo chiede il paese, cioè come si può misurare che cosa chiede il paese. Comunque ne parliamo con il senatore Francesco Nitto Palma del Popolo della Libertà e presidente della Commissione Giustizia, ed è stato anche ministro alla giustizia. Buongiorno senatore. Buongiorno, eccoci qua. Così come saluto il senatore Alberto Airola del Movimento 5 Stelle. Buongiorno anche a lei, senatore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Lei fa parte della stessa Commissione Giustizia, sì. E mi risulta che lei prenderà la parola oggi al Senato in nome del Movimento 5 Stelle, che è il movimento che più chiede, a gran voce ha presentato questa mozione di sfiducia, comunque chiede le dimissioni del Ministro Cancellieri. Dimissioni perché? Ma dimissioni perché, a prescindere dal fatto che un ministro forse non è bene che prenda posizioni rispetto a dei singoli, anche se potremmo discuterne, potrebbero esserci dei casi umani che richiedono un intervento, purtroppo ce ne sono stati che non hanno avuto questo intervento, ma a prescindere da questa polemica, quello che noi critichiamo più di tutto è l'intreccio, è la lunga amicizia con del ministro Cancellieri con una famiglia che è quantomeno di dubbia moralità, intrecciata da decenni con politica, finanza, affari, vicende giudiziarie lunghe come... Però insomma, mi scusi credo. Senatore, si può chiedere le dimissioni di un ministro per delle amicizie con... Dipende dalle interazioni che ha con queste amicizie, chiaramente, e le interazioni nel caso specifico, viste anche le intercettazioni, almeno finché non verranno smentite, parlano, e sono intercettazioni relativamente pesanti, direi, no? C'è una messa a disposizione del ministro nei confronti della famiglia Ligresti. Lei dice era una solidarietà umana, tant'è vero che lo stesso procuratore capo di Torino e le persone che lei ha chiamato hanno smentito che poi si sia, come dire, attivata fisicamente, cioè non è che ha fatto telefonate compulsive a dire allora aiutate Giulia Ligresti, ha fatto una segnalazione. Oggi il Corriere... Io mi riferivo all'intercettazione proprio con la compagna di Gabriella, esatto. Con la compagna di Salvatore Ligresti. Oggi il Corriere della Sera scrive che non ci sarà un voto sulle dichiarazioni. A lei risulta? Cioè ci spieghi oggi che succede? No, perché non ci sarà la presentazione. Oggi c'è la relazione del ministro in merito. Noi abbiamo depositato la mozione di sfiducia, ma non ci sarà oggi la presentazione della mozione. Quindi sarà una replica alla ministra. Questo è importante capire, cioè oggi non si voterà su dimissioni sì no del ministro Cancellieri. Senatore Palma, lei è stato ministro. Intanto le faccio questa domanda da ex ministro proprio alla giustizia. Lei così in via Renula avrebbe mai alzato il telefono per manifestare solidarietà umana e amicizia verso una persona, compagna di una persona arrestata? Ho letto un'intervista del ministro Cancellieri, la quale dice di essersi trovata di fronte a un bivio: mostrare solidarietà a una persona che conosceva da tempo, con cui aveva avuto dei rapporti, ovvero come dire percorrere la strada di una facile viltà e non mostrare questa solidarietà. Non so quello che avrei fatto io personalmente, non trovo nulla da ridire in ordine a questa telefonata, anzi per certi versi apprezzo il fatto che il ministro Cancellieri abbia fatto prevalere l'amicizia, la solidarietà umana rispetto alla facile strada del silenzio. Mm. Dopodiché c'è quella telefonata invece per informare sulle condizioni di salute di Giulia Ligresti. Dice: ministro Cancellieri, io l'ho fatto per tante persone, sia che fossero stranieri, sia che fossero italiani, sia che fossero ricchi, poveri, persone conosciute e sconosciute. Questo la assolve politicamente parlando, secondo lei? Ma qua dobbiamo essere chiari proprio sui fatti. E il primo punto è la liberazione della Ligresti e avviene senza alcun intervento da parte della Cancelliera. In tal senso sono le dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Torino, Giancarlo Caselli. Cosa ha fatto il Ministro Cancellieri? Ha segnalato una situazione di difficoltà carceraria al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e non ha fatto nient'altro. Ha chiesto solo dell'attenzione. E accadono al Ministero cose del genere? Senz'altro sì. Quando io sono stato ministro arrivavano sul mio tavolo diverse segnalazioni di casi umani e quando questi casi umani assumevano una rilevanza gli uffici prendevano le dovute affermazioni. Questo è accaduto sì. Con me, questo è accaduto con Clemente Mastella, che lo ha detto ieri tranquillamente in televisione. Credo che sia accaduto con tutti i ministri, perché credo che sia un dovere del ministro accertarsi delle situazioni rilevanti di difficoltà che gli sono rappresentate. Sì, però qui io il punto. Infine, mi scusi, sì. Una terza cosa. Il caso della Giulia Ligresti era un caso sotto il profilo della difficoltà umana carceraria rilevante? Beh, io credo che la prova di ciò sia data dalla liberazione della Ligresti, o meglio degli arresti domiciliari concessi alla Ligresti dal giudice di Torino, il quale li ha concessi proprio in ragione della sua situazione di salute. No, ma è chiaro che dal punto di vista penale non ci sia nulla di cui discutere, questo è abbastanza sottolineato da parte di tutti. Dal però, punto di vista comportamentale io credo che tutto ruoti intorno a quello che diceva prima il senatore Airola, cioè se noi dobbiamo penalizzare una persona per aver avuto, come dire, un rapporto di amicizia, di conoscenza, di frequentazione, non so, questo non mi è dato sapere, con delle persone che successivamente sono rimaste coinvolte in un processo penale. Però la questione è anche, cioè non colpisce nessuno, non so, chiedo al senatore Airola, chiederò anche ai miei ascoltatori, non colpisce nessuno il fatto che comunque ci sia un rapporto di amicizia. È vero che Anna Maria Cancellieri dice, ma il mio cellulare testuale ce l'ha anche il mio pescivendolo. Io personalmente, per esempio, io non ce l'ho il cellulare di Anna Maria Cancellieri, faccio questo lavoro. Cioè a lei, senatore Airola, colpisce forse il fatto che sia intervenuta comunque per una persona amica, ecco, come dire, se ho l'aggancio giusto, se ho la fortuna di conoscere le persone che contano, magari ho la fortuna di avere una telefonata che mi può aiutare, altrimenti no. Ma intanto speriamo che il pescivendolo del ministro Cancellieri non sia come Don Salvatore Ligresti, ecco. Vabbè, glielo auguro per lui. Il problema è che questa amicizia non è l'amicizia con una famiglia che dopo qualche anno si scopre incredibilmente coinvolta in affari appunto loschi, è una. Vabbè, questo però è tutto da provare, senatore Airola, non dica. Don Salvatore Ligresti ha avuto delle condanne, è stato coinvolto in tangenti. Per vicende passate. La storia giudiziaria è importante, non è una cosa che è negabile. No, no, certo, quelle sono vicende passate. Adesso la vicenda è tutta da dimostrare. Durante l'amicizia, mentre lei non era ministro, ma era prefetto, viceprefetto, dagli anni 80 che succede. Quindi lei dice una persona, un funzionario del livello di Anna Maria Cancellieri non dovrebbe avere rapporti. Troncare queste conoscenze, queste frequentazioni e perché è assolutamente appunto sconveniente, mette in dubbio l'imparzialità, anche l'onorabilità, che io non discuto adesso nel merito, perché appunto, come ha detto giustamente lei, non ci sono così rilevamenti penali. Il problema, come dice il presidente Palma, è se si debba per questa amicizia, lei dice inopportuna, può mettere tutti gli aggettivi che vuole, ma per questo deve decadere da ministro? Mi tengo moderato anche. Inopportuna è un eufemismo. Per questo però deve decadere da ministro, non è opportuno che faccia il ministro. Ma non dopo che lei dice a questa famiglia qualsiasi cosa io possa fare conta su di me. Non è giusto, non è giusto, qualsiasi cosa serva non fate complimenti. Allora, io le trovo imbarazzanti queste affermazioni, soprattutto fatte dopo che il DAP ha già preso i provvedimenti necessari, cosa che appunto risulta essere giustamente automatica. Però lei senatore Airola, sposta un po' il problema, cioè non è tanto la questione, come si dice, penale o la questione di accertare se davvero l'intervento sia stato, abbia prodotto il risultato della scarcerazione, per lei questa questione è a monte, insomma, non si frequentano certe persone. Perché se noi guardiamo, cioè in Italia c'è un sistema di conoscenze e Salvatore Ligresti e la sua famiglia è al centro di questo sistema, perché ha favorito o comunque ha intrecciato rapporti economici, politici, finanziari con il centrodestra, con il centrosinistra. Ci troviamo in questo momento, guardi, è un momento particolare anche per quello che riflette un po' la politica. Unipol e Fonsai si stanno fondendo, c'è questa fusione in corso, e che rispecchia un po' le larghe intese, perché Unipol è collegata al centro-sinistra, Fonsai con Mediobanca. Vabbè, lei la mette su grandi scenari, come dire, metto su grandi scenari, perché dal grande arrivo dal generale arrivo al particolare, e in questo caso il generale è una rete di rapporti in cui ci sono anche i figli di queste persone. Anche qui non c'è una rilevanza penale nel fatto che Pier Giorgio Peluso lavora. Ha lavorato per Fonsai. Esatto. Non vogliamo anche discutere del fatto che anche il figlio dell'ex direttore presidente della Consob e di ISVAP Giovannini hanno lavorato per Salvatore Ligresti. Sì, insomma, lei mette insomma, aspetti però, perché devo andare un attimo in pubblicità e poi riprendiamo. Lei mette insomma questo intreccio di sistemi di parentele anche che secondo voi del Movimento 5 Stelle non va bene, insomma, che sta poi sopra a tutta questa vicenda. Non lo so, riprendiamo tra qualche minuto anche con le vostre telefonate 800 24 00 24 col senatore Airola, col senatore Nitto Palma. Ci raggiungerà anche Ilaria Cucchi, fratella e sorella di Stefano, che è morto in carcere, che 2 giorni fa ha detto: ci fosse stata il ministro Cancellieri, probabilmente mio fratello non sarebbe morto. Eccoci qua, le 8:37 minuti. Allora, io vorrei chiedere subito al senatore Nitto Palma 2 cose. Senatore, la prima è questa: voi, Popolo della Libertà, è vero che non si voterà oggi, ma in caso di un'eventuale votazione, mi pare di capire, Popolo della Libertà è per dire Anna Maria Cancellieri può rimanere al suo posto, è così? Per quello che riguarda me, questa è la posizione. Ascoltiamo quello che ci verrà a dire oggi il ministro Cancellieri, ma se le cose resteranno quelle che sono, dal mio punto di vista non vi è ragione per votare la sfiducia. Ha sentito complotto, diciamo, però, comunque gli intrecci? Sì, però se mi consente vorrei dire 2 cose molto rapidamente. Il ministro Cancellieri viene dal mondo della società civile ed è abituata, come tutte le persone che vivono normalmente nella società civile, a avere, come dire, dei comportamenti assolutamente normali. A voi crea tanta meraviglia il fatto che il pescivendolo possa avere il numero del ministro Cancellieri, e personalmente il mio numero è a disposizione del mio fruttivendolo, onde per cui non ci vedo una grande differenza, se devo essere sincero. Dopodiché, liberandoci dalla questione specifica, cioè Giulia Ligresti, io credo che il senatore Airola invece fa un ragionamento che ove generalizzato necessita di attenzione. Cioè gli intrecci, rapporti. Questo degli intrecci che esistono tra mondo imprenditoriale, tra mondo politico, cioè tra il mondo che esistono all'interno del mondo dei potenti. Ma insomma, questo mi sembra più un discorso di tipo sociologico che di tipo squisitamente politico. Ove è correlato al caso che... Le chiedo anche questo, senatore, si è paragonato da parte anche degli esponenti del Popolo della Libertà questa vicenda alla vicenda Berlusconi e la telefonata per il famoso caso Ruby? Secondo me sono due cose completamente diverse, secondo lei? Ma se devo essere, come dire, obiettivo, una telefonata in un caso, una telefonata in un altro. Una richiesta di attenzione in un caso, una richiesta di attenzione in un altro, quindi sul piano oggettivo, piaccia o non piaccia, vi è sicuramente una certa analogia tra le due telefonate, onde per cui devo dire la verità, insomma, affaticarsi a dire che sul piano oggettivo vi è una differenza fra le due telefonate, io credo che sia, come dire, una operazione sufficientemente farisaica. Allora, intanto voglio salutare Ilaria Cucchi, buongiorno e benvenuta, eccoci qua. Sorella di Stefano, che è morto il 22 ottobre 2009, lo ricordiamo, durante il periodo di custodia cautelare, in questo caso in ospedale. Fatemi sentire due ascoltatori, poi sono subito da lei. Gaetano da Latina, buongiorno Gaetano. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo dire una cosa molto semplice. Sì. La ministra Cancellieri se deve dimettere... La semplice ragione della telefonata, ma non per l'eventuale liberazione di Giulia Ligresti, ma per quella telefonata fatta di solidarietà, fatta alla famiglia Ligresti. Quindi la prima telefonata, lei dice non deve dimostrare... Quella è stata una cappellata, insomma l'avrà fatta assolutamente in buona fede. Io non ho nessun elemento. Ma mi scusi, se lei dice io, certo, però Gaetano, il ministro dice sono amica da 40 anni di questa persona e quindi in uno slancio di umana solidarietà le arrestano il compagno, che devo fare? Sta piangendo a causa dei Ligresti, tanta gente avranno perso dei patrimoni per la Fonsai, eccetera, tutte quelle situazioni, insomma. E quindi lei dice non doveva fare questo. Non avrebbe assolutamente dovuto. Va bene. Quindi solo per questo dovrebbe dimettersi, secondo lei. Grazie Gaetano, no, è stato chiarissimo. Vado un po' di fretta così c'è spazio per tutti. Marcello da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire che intervenire a favore di un amico, chiunque sia, di un'amica, è un comportamento opinabile ma umano. Il lato triste della vicenda ministro cancellieri Ligresti è l'intreccio dei rapporti che si legano tra potere politico, potere economico e alti funzionari dello Stato. Quindi italiano. Anche lei punta l'accento su questo. È questo che è stato una delle rovine, insomma, del pubblico impiego italiano, del livello dei pubblici funzionari italiani. E per questo penso che in un paese civile la manifestazione di questo intreccio giustificherebbe le dimissioni. Va bene. Ma in questo paese ho paura che non accada. Non accada, va bene Marcello, anche lei punta l'accento su questo. Ilaria Cucchi, perché lei ha detto una frase anche molto forte nei giorni scorsi, cioè se ci fosse stata il ministro Cancellieri all'epoca della vicenda di mio fratello magari o probabilmente sarebbe vivo a questo punto. È una frase, insomma, di una certa responsabilità dire una cosa del genere. Sì, io devo dire non amo le ipocrisie. Io amo riconoscere le cose per quello che sono e io onestamente le dico questo, io non conosco quasi nulla del caso Ligresti, però quello che io credo è che non si possa pensare con canoni di etologia politica moralista ed ipocrita. E chi è tirato in ballo il nome di mio fratello affiancandolo a questa vicenda deve capire che per me è insopportabile l'idea che altre persone possano morire in quelle stesse condizioni. Quello che io vedo, il resto non mi interessa, e quello che conta è che un medico ha certificato che la vita di quella donna era in pericolo in carcere, e questa è una cosa gravissima. Se per tirarla fuori è stato necessario l'intervento del ministro, allora secondo me sotto accusa ci debbono andare i giudici e la carcerazione preventiva. Quindi non ha fatto nulla di male, anzi, allora io dico questo, che... La vicenda di mio fratello deve far riflettere su quanto ci sia bisogno di un'uguaglianza nel diritto alla vita e non nella sua negazione. Ora stiamo mettendo in crisi la Cancellieri, ma questo significa non vedere i problemi di un sistema cinico senza morale e spietato. Sì, Voglio dire, la Ligresti è ricca e questa vi sembra una buona ragione per lasciarla morire in carcere? Io credo di no e soprattutto non nel nome di mio fratello. Quello che deve insegnare questa esperienza è altro. Che abbiamo un sistema giudiziario in Italia che è spietato e spesso ipocrita. La cancelliera è intervenuta perché amica, ben venga se questa ha potuto salvare una vita. Beh, questo è interessante. Oppure in nome dell'uguaglianza bisognava lasciarla morire, questo richiederebbe la morte di mio fratello. Io credo di no. Quello che conta è che un medico ha riconosciuto che questa persona era, per le sue condizioni fisiche e di salute, incompatibile con il carcere. Solo questo. È interessante, basta, perché... Io direi, anche alla luce della mia esperienza, veramente basta con questo sistema presuntuoso che, diciamo, qui si va avanti in nome di grandi principi che poi puntualmente vengono ignorati. Allora, senatore Airola, Ilaria Cucchi ci sta dicendo un po' quello che anche ha detto Anna Maria Cancellieri all'inizio, quando è sorta questa polemica, cioè se fosse successo che Giulia Ligresti fosse morta in carcere, io che avevo la possibilità di intervenire, come mi sarei sentita? Mi sarei sentita ovviamente responsabile, e allora mi sono trovata di fronte al fatto di dire: da una parte intervengo e certo la conosco, è amica di famiglia, dall'altra parte cosa devo fare? Ho saputo di questa situazione, non faccio nulla, poi succede una vicenda drammatica come quella di Stefano Cucchi e io me la sarei portata dietro per tutta la vita, perché non sono intervenuta. Allora ho deciso di intervenire umanamente anche per una persona amica. Senatore Airola, cosa c'è di male in questo ragionamento? Ma intanto, premesso che, cioè, giustamente nessuno deve avere questo tipo di vivere questo tipo di inferno come ha vissuto Cucchi, e quindi però ribaltando la questione dimostra in qualche modo che il ministro non si fida del DAP e delle carceri, in primis. In seconda battuta, ho letto un bell'articolo di Chiara Saraceno che mette un po' in luce la differenza di trattamento che c'è evidentemente nelle parole, già insite nelle parole del ministro Cancellieri, perché è evidente che c'è una persona importante, c'è una discriminazione, no? Tra chi ha un nome, tra chi è importante e chi non c'è. Ma essere amico è una discriminazione, cioè Ilaria Cucchi dice ha aiutato del ministro ho capito, ma questo deve diventare in qualche modo, come dice Ilaria Cucchi, allora siccome è amica muoia pure in carcere, no, io non posso farlo. Contrario, intanto il DAP aveva già fatto le scelte, diciamo, nella direzione giusta, no? Quindi la telefonata era inutile. È da ribaltare, cioè nessuno tutti devono essere trattati giustamente, certo. Non bisogna essere democratici nell'ingiustizia, ma democratici nella giustizia. Cioè, in questo lei dice giustamente, vuol dire che il ministro non si fida del sistema carcerario italiano e invece bisognerebbe adoperarsi in situazioni per cui né il caso Giulia Ligresti, ma né il caso Stefano Cucchi, né nessun caso di sopruso in carcere debba esserci. Ripartiamo da qui tra un attimo, dopo le informazioni sul traffico. Eccoci qua all'ultima parte di 24 mattino, prima di tornare dal senatore Palma dell'area Cucchi. Giovanni da Varese. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno Milan, volevo raccontare una breve esperienza. Sono fatto il sindaco in un paese di 7.000 abitanti. Credo che chi ha un ruolo istituzionale è soggetto, come dire, a queste sensibilizzazioni. Quando veniva da me qualche persona che si era rivolta ai servizi sociali e non ha avuto una risposta positiva, io mi informavo con i servizi sociali per capire se era stato fatto tutto correttamente, se non c'era spazio per una maggiore Quindi attenzione. Quindi lei dice, da ex sindaco, da amministratore, comunque da chi ha una posizione di potere, è normale ricevere segnalazioni e anche è normale impegnarsi, esporsi in prima persona? Nel senso di attivarsi per approfondire. Qui la questione però, il vulnus è per l'amico, insomma, no? È questo il senso, cioè per la persona amica di famiglia, questo, avere un occhio. Una seconda esperienza è venuta da me, un conoscente, la moglie lavorava in comune, praticamente mi ha detto di favorirla in un concorso e io l'ho messo alla porta. Poi, era un tentativo di corruzione. Ma questo per dire che si occupa un ruolo istituzionale. Ha questo tipo di, come dire, ecco, di attenzioni. Chiederei al senatore se il suo collega sindaco Pizzarotti non abbia anche di queste sollecitazioni, poi uno si comporta correttamente. Ah, immagino quindi al senatore del Movimento 5 Stelle. Prima però della questione Pizzarotti, perché sennò mi porta fuori dalla scaletta. Senatore Palma, le chiedo, il fatto di quella telefonata del ministro Cancellieri è, dice il senatore Airola, una sorta di ammissione implicita del fatto che il ministro stesso non creda al fatto che il sistema carcerario funzioni in modo come dovrebbe funzionare, cioè che una persona che non è compatibile con la detenzione in carcere non deve starci? Perché c'è bisogno di alzare il telefono? Ma senta, guardi, la situazione carceraria in Italia è nota a tutti ed è più particolarmente nota a chi riveste il ruolo di ministro della giustizia. Noi abbiamo un sistema carcerario folle, dove nella maggior parte dei casi non è assicurata la dignità umana di chi si trova in stato di detenzione. E il ministro sa perfettamente in quale situazione versano le carceri italiane. E se all'interno di questa sua consapevolezza ritiene di dover sollecitare l'attenzione nei confronti di un detenuto, qualunque esso sia, che si trova in una situazione difficile, la cui rilevanza è una rilevanza importante che merita un intervento, il ministro non è che può fare, non è che può adottare un'iniziativa, il ministro deve adottare un'iniziativa. Dopodiché c'è un grande problema della politica. La politica, per tutta una serie di ragioni, non si è mai interessata di intervenire seriamente su quello che il Presidente della Repubblica chiama l'uso eccessivo della custodia cautelare. La politica non si è mai interessata veramente di risolvere i problemi del carcere, ed è questa la ragione per la quale noi ogni 5, 6, 7 anni bisogna parlare di amnistia, veniamo affaticati dall'amnistia e dall'indulto. La politica non ha mai voluto fare questo, e qual è la ragione? Non è neanche una ragione nobile, se devo essere sincero, perché probabilmente la ragione è quella della perdita o dell'acquisizione di un consenso elettorale. Sì. E si va avanti su dei ragionamenti di bottega senza affrontare i problemi veri di questo paese. Perché difendere il tema dei diritti ai carcerati non produce voti, diciamolo chiaramente. Voglio dire, abbiamo vissuto per anni, come dire, una supervalutazione non tanto delle esigenze di sicurezza dei cittadini, ma una supervalutazione della necessità di uno Stato giustiziere, di uno Stato vendicatore. Lo Stato applica delle pene, fa espiare delle pene, ma ha il dovere di farle espiare in una situazione carceraria dignitosa. No, e questo certamente, è quello che è accaduto questo in certamente. Io vorrei, Ilaria Cucchi, mi ha molto colpito il fatto che lei dica, beh, se è adoperata per un'amica ben venga, perché ha salvato una vita, perché la sensazione, sai, che uno dice, ed è il punto di partenza, che se uno non ha l'amico giusto fa più fatica a far prevalere e a difendere i propri diritti, diritti che dovrebbero avere tutti. No, diciamo che il discorso è un altro, e non si può mettere sotto accusa la Cancellieri perché Giulia Ligresti era una sua amica, perché Giulia Ligresti era ricca. Noi dobbiamo parlare di uguaglianza a 360 gradi, questa è la mia battaglia, questo è quello che vorrei far capire, non il contrario. E allora io posso dirle anche questo, ma non perché io senta di dover difendere nessuno, né perché credo che la Cancellieri abbia bisogno delle mie parole in difesa. E la Cancellieri, a proposito di quello che si diceva prima, io so per certo che, e sa perfettamente quali sono i problemi delle nostre carceri, so per certo che da donna e umanamente soffre per le ingiustizie che noi ed altri siamo costretti a subire. Ah, ma so su questo... ha ricevuto me e ha ricevuto Lucia Uva, e come noi ha ricevuto anche nomi, diciamo, meno noti di vittime delle nostre carceri. No, ma su questo, guardi, non c'è dubbio, e nessuno mette in dubbio, e neanche i giornali che ora la criticano, ha messo mai in dubbio la battaglia quotidiana che il ministro Cancellieri fa per i diritti anche di scontare le pene nelle carceri italiane in maniera dignitosa. Io mi fermo qui, grazie al senatore Nitto Palma, al senatore Airola, il primo del Popolo della Libertà, il secondo del Movimento 5 Stelle, Ilaria Cucchi. Sentiremo oggi le parole del ministro Cancellieri e ci ritroviamo domattina alle 6.30. Il più bel regalo di Natale? Scoprire le stazioni di servizio Costantin. Alta qualità, a prezzi bassi. Vi ha presentato 24 mattino.